Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, ben svegliato Donald Trump, ormai ci siamo abituati a quest'ora, pochi minuti prima delle 14, le 8 americane, comincia la raffica dei tweet del Presidente degli Stati Uniti, che appunto Simone Spezia vi ha letto e aggiornato su questo tema. In Europa intanto la Commissione invece ci aggiorna su un provvedimento che era atteso ed è questo ultimo avvertimento a Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Italia, perché non hanno affrontato le ripetute violazioni dei limiti di inquinamento dell'aria per il biossido di azoto, che costituisce un grave rischio per la salute. La maggior parte delle emissioni, spiega la nota della Commissione, provengono dal traffico stradale, in particolare dai motori diesel. Se gli Stati membri non agiranno entro 2 mesi da oggi per mettere in campo misure idonee a risolvere il problema, la Commissione potrà decidere di deferirle alla Corte di Giustizia Europea. Insomma, Bruxelles sollecita l'Italia e gli altri paesi che vi ho detto ad agire per garantire una buona qualità dell'aria, ricordando che più di 400.000 cittadini muoiono prematuramente nell'Unione Europea ogni anno a causa della scarsa qualità dell'aria. Effetti invece di Brexit, ovviamente sul Regno Unito, cala ancora la disoccupazione a Londra e dintorni, a dispetto dei timori legati alle incertezze sulla transizione, toccando un nuovo minimo storico da 11 anni, con un totale di senza lavoro indicato non oltre il 4,8%. Così i dati ufficiali relativi all'ultimo quadrimestre del 2016 e distribuiti, diffusi dall'Ufficio Nazionale delle Statistiche, dopo le cifre meno positive diffuse ieri dalla Banca of England sull'inflazione, passata dall'1,8 di gennaio contro l'1,6 di dicembre, quindi salita. Continuano inoltre a crescere, sempre secondo l'ONS, i redditi medi della popolazione del Regno Unito. E ora parliamo di politiche di migrazione e di rimpatri. Dobbiamo rafforzare la possibilità di effettuare rimpatri, perché la maggior parte dei migranti in arrivo in Italia sono migranti economici. Così il direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri. Su questo tema anche un importante intervento del nostro ministro degli interni Minniti. Ma sentiamo tutto questo nel servizio di Alessandra Schepisi. Il quadro di relocation è del tutto insoddisfacente. Le politiche di collaborazione tra paesi europei non vanno nella direzione auspicata, lo sostiene con forza il ministro dell'interno Minniti nella sua relazione al comitato Schengen alla Camera. Numeri insoddisfacenti, visto che solo poco più del 10% dei profughi dall'Italia sono stati ricollocati in Europa. Erano state fissate per l'Italia 40.000 relocation, ne abbiamo operative 3.200. Faccio presente che le relocation erano obbligatorie. Il peccato originale, secondo il ministro, è il regolamento di Dublino. Quando stabilisci che il paese di primo approdo deve affrontare il problema, non si tiene conto del principio di solidarietà che dovrebbe esserci in Europa. Quanto a Schengen, dice, per tutelarlo bisogna tutelare i confini esterni dell'Europa, e annuncia che sono pronti i primi equipaggi della Guardia Costiera Libica. Infine, le linee guida che il suo governo intende seguire: severità verso chi è fuori dalle regole e non le rispetta, integrazione per chi è nelle regole e le rispetta. E sull'accoglienza, non più grandi centri e riduzione dei tempi per la concessione del diritto d'asilo. Altro punto cruciale per Minniti è l'approvazione rapida di una legge su minori non accompagnati. Io lo considero veramente cruciale. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un raddoppio delle presenze dei minori non accompagnati nel nostro paese. Su questo terreno si gioca il livello di civiltà di un paese. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono le 14:06, tra qualche istante la linea va a tutti i convocati. Noi ci risentiamo domani, un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.